Salve Phase Zero Episode 3. Ciao, buonasera a tutte e tutti. Dal Forte Radio Forte, Ettore Andrea controlli. Bella. Allora, trasmissione dedicata ai Simande. Poi parliamo meglio, diciamo un po' più di cose. E intanto stiamo ascoltando The Message, il primo 7 pollici registrato da questa band inglese nel 1972 per la Janus Records. E allora, i Simande stasera. Allora, questa invece è Zion Eye. Alea, alea, alea, alea, alea. che è il lato B del singolo che abbiamo prima ascoltato, cioè The Message, sempre quindi per la Janus nel 1972. Questa è la versione dall'album, l'album Si Mande, sempre del 72. E allora, Zion High, dal primo album, questa canzone nell'album è accreditata a Mike Rose e Pablo Gonzalez, ma in realtà diciamo che il credito è abbastanza discutibile, in quanto sentite, questa invece è Holy Mount Zion di Count Ossie and the Zion All Stars ed è molto simile a quella accreditata ai due componenti dei Si Mande. In realtà è un canto Rastafari, è un canto Naya Bingi per essere precisi, che è più che una stile musicale, è un rituale, è una musica rituale che veniva usata in Giamaica appunto nei culti rastafariani. Non a caso i Si Mande si definivano una band Naya Rock, ovviamente Naya viene da Naya Bingi. Still the E allora, bra, questo è il titolo del secondo singolo per i Simande. Questa anch'essa è una versione album di questo brano che esce sempre nel 72 e che viene raccolto appunto nel primo LP. Allora, Simande è una band chiaramente poco conosciuta in maniera diretta, diciamo, ma sicuramente molto conosciuta in maniera inconscia e indiretta. Questo perché sono stati riscoperti nell'ambito fra anni 80 e 90 della seconda scuola hip hop come fonte lussuriosa di campionamenti. Vi invito ad andare al sito Usampled e potete vedere tutti i vari campionamenti dei vari brani di Simande. Vi dico solo che per questo ce ne stanno su questo sito 23, di cui alcuni nomi anche inaspettati. Tra l'altro la Sugar Hill Gang stessa nei tardi anni 80 lo usa, e anche un remix di Full Force di un brano di James Brown del 1988, per esempio. Ma questo stesso brano come break era usato anche all'inizio da Kool Herc e Grammers Flash per i loro sets. Alla fine di questo brano mandiamo una traccia hip hop di quel periodo a cui ci riferivamo invece prima. Dopo vi diciamo cos'è e ne parliamo un po'. Intanto bra. Again, it's time to buy more soul. Flavor you will savor in your soul. Wax is distributed in the bin soul. Dishwasher sends it in your next kin soul. PA makes his proctor on the console. Scream your heart until you blow your console. Bangle bang until you wear your shoe soul. You are now dancing to the mid soul. The motion of the soul step. Set the exposure to my one step. This scene will last to the next step. All those in favor take a big step. Truth to the soul will never backstep. Incense to that, we don't half step. Just as a reminder from the last step. Negative ones are lost in footsteps. Will never go down. Competition commenced to step down. Those involved will keep to know the soul down. And see that the soul's got a new sound. Dance until you find yourself a new part. If you don't, then I'll give you the true part. When received, you see that we're a small part of a new way. There's no one at all. Of is really quite not dressed. Wolves always walk around not stressing. Wear on this bite of shit or chew a piece. A thing that they cause violence to shoot a piece. Still we are progressive, so we on a roll. Pop the balls with party doors on the roll. And if you crave sex, drugs, and rock and roll, stand by the question that I feel I'm strong. Thank you. E allora ancora Phase Zero, ancora in compagnia di Simande. Questo brano che usiamo come sottofondo per dire alcune cose si chiama Dove, che vuol dire colomba, e su questa cosa della colomba ritorneremo anche per un po' spiegare il nome Simande. C'era tutto un mistero attorno a questa cosa che in parte abbiamo risolto. Il brano che abbiamo ascoltato prima di questo invece era ovviamente il brano di De La Soul, Change and Speak, dal loro capolavoro Three Feet High Rising, la produzione di Prince Paul, quel genio di Prince Paul a cui speriamo di dedicare una trasmissione intera a lui e alle sue produzioni. Conteneva vari campioni, il primo era il riff iniziale, era The Mad Lads, No Strings Attached, e invece quello che è andato lungo tutto il brano come base era, l'avete capito, il brano Bra de Simande, quello che avevamo ascoltato prima. Un brano campionatissimo, vi invito a tal proposito ad andare a controllare il sito Usampled, in cui vi dice tutti i campioni di tutti i brani di Simande che sono stati usati dalla seconda scuola hip hop, e diciamo che questo è stato un po' il viatico che ha dato modo di essere riconosciuti, se non conosciuti, Simande, che altrimenti sarebbero abbastanza opachi nella notorietà se non fosse che indirettamente l'abbiamo digeriti attraverso appunto tutto l'uso che ne ha fatto l'hip hop. Tra gli altri, addirittura Kool Herc usava Bra come break per i suoi set, anche Grandmaster Flash, abbiamo trovato versioni di James Brown rimissato da Full Force degli stessi Sugar Hill Gang. E comunque appunto è divertente andare a controllare quali sono i campioni e quali sono i brani scelti che sono stati campionati dall'hip hop fra anni 80 e 90. E allora, i Simande nascono in Inghilterra, sono una band inglese quindi, però i loro componenti vengono tutti dalle Indie occidentali. Ve li presentiamo. Steve Scipio al basso e Patrick Patterson alla chitarra, dalla Guyana, sono i due leader, e ancora dalla Guyana Jody a voce e percussioni e Peter Serreo al sax tenore. Ray King, voce e percussioni da Sam Vincent. E poi dalla Giamaica Derek Gibbs al sax alto e soprano, Pablo Gonzalez alla congas, Sam Kelly alla batteria e Mike Rose ai fiati, alle percussioni e al sax alto, sempre dalla Giamaica. Vengono scoperti nell'ottobre del 1971 in un club di Soho da John Schrader, che è un produttore già abbastanza navigato, che tra l'altro aveva lavorato per la Warrior Records distribuendo i dischi della Tamla Motown, della famosa Tamla Motown di Barry Gordy in Inghilterra. E John Schrader fonda la Janus Record in Inghilterra, appunto, per la quale i Simande registreranno i loro dischi, e la Janus è una sotto etichetta della famosissima Chess di Chicago. La portantina in un ospedale, quando piena di speranza e attratta dalle lettere ottimistiche delle amiche già in Inghilterra, partita Trinidad, sognava un lavoro comodo che non le sporcasse le mani, ma presto capì che le amiche, non volendo ammettere il proprio insuccesso con quelle invidiose che erano rimaste all'isola, le avevano nascosto e abbellito una verità deprimente. Non trovò di meglio che quel lavoro all'ospedale, pulire la corsia, la cucina e i gabinetti, un lavoro spregevole. Infagottata in un grumbilone rosa, la cintura lenta sui fianchi magri, se la rifaceva con i pazienti, sbattendo la ramazza contro i letti, spazzando, e con le infermiere, buttando gli strufinacci in mezzo alla biancheria sporca già contata. O fa sparire il latte quando era ora di servire i pazienti malati di stomaco. Signorina mia, rispose, la sua Londra se la tenga pure, e tutti quei discorsi di fratellanza con le colonie della nostra gloriosa eredità. L'eredità mia dunque sarebbe di pulire il moccio e il vomito di tutti quei vecchi malati, mai tanto malati però da scordarsi che hanno la pelle bianca. Senta, la prossima volta che vado al cinema giù al paese mio e suonano il Dio salvi la regina e la gente si alza pensando che bravi sudditi siamo noi, Dorothy Biggs prende e se ne va, e se qualcuno mi dice qualcosa io gli rispondo, faccio esattamente come i nostri cari fratelli e sorelle della madrepatria. La mamma sembra stanca, papà si sente vecchio, sono qui da 30 anni, non si vedono ancora strade d'oro. La mamma ha fatto le valigie all'età di 19 anni, sarebbe andata in Inghilterra, avrebbe vissuto come una regina. Costruirà la sua casa e crescerà bambini, a volte so che vorrebbe non averlo mai fatto. Eri ok nella giungla, starei bene nei bassi fondi, ma nelle baraccopoli c'erano case poco migliori delle baracche. Segni nella finestra, no Irish, no Blacks. Giovani dotati e neri erano una squadra perfetta e ora non possono tornare indietro, hanno perso tutto per un sogno. Allora, sempre su Dove dei Simande abbiamo letto delle cose, abbiamo detto delle cose, letto delle cose, diciamo le fonti, abbiamo fatto una sorta di montaggio di Putpurri per dare un po' una fotografia di quella che poteva essere la realtà ambientale per appunto le prime le persone delle prime immigrazioni dalle Indie occidentali in Inghilterra, i primi flussi migratori. Questo, la prima tranche è stata tratta da un libro di Monica Dickens, pronipote del più celebre Charles. Un disco che si chiama Nel cuore di Londra, fra l'altro nella traduzione di Luciano Bianciardi in questa edizione. E poi abbiamo invece dato un assaggio del testo del brano che andremo a sentire dopo. Andrea ha letto delle strofe dal And It Wasn't a Dream, The Ruthless Rap Assassins, un gruppo anch'esso inglese che nel 1990 appunto rievocava questa memoria delle prime generazioni di immigrati appunto dalla Guyana al Giamaica e via dicendo, nella Londra che avrebbe dovuto accoglierli, invece poi è stata discriminante nei loro confronti dal punto di vista oltre che razziale anche classista. Quindi io direi che possiamo forse partire mixando con questo Dove e sentire direttamente appunto il brano And It Wasn't a Dream dei Ruthless Rap Assassins. And it wasn't a dream, this was a nightmare. Mom's looking tired, that's feeling old. They've been here for 30 years, but still ain't seen no shoes so cold. Mom packed her cases at the age of 19. She was gonna go to England, she would live like the queen. She would build her own house, she would raise no kids. Sometimes I know she wishes that she never did. But what's done is done, so what's past is past. The only question now, how long can she last? There's little future for the children in a world they never made. So tell me, where's the future for the middle age? Mom's gotta put her future in the hands of the Lord. I hope she goes to heaven for a final reward. She worked her fingers to the bone to make her life better. Tried to be a citizen, they wouldn't let her. Residential areas gave a message to mom. You're okay in the jungle, you'll be fine in the slum. But in the slum there were houses little better than shacks, with signs in the window, no Irish, no blacks. Wife and husband with nowhere to go. Winter coming on and they never see snow. They say that life isn't easy, then you die. But you can't give up, you have to give it a try. Where there's youth there's hope, no matter how bad it seems. They knew that one day soon they would achieve their dream. And it wasn't a dream, this was a nightmare. When dad was a lad, he was bad. But check him out now, he's kinda sad. He came here to England, he thought he'd do well. He knew more about the English than they knew about himself. Question him on Africa, he'd give you some crap about the place across the sea where all the people were black. Where they lived in grass houses, where they didn't wear clothes, where every last person had a bone through the nose. But what did he care? He was in the UK, where people coexisted in a civilized way. With this kind of thinking, his brainwashed mind couldn't cope, he lost hope and now he's lost and blind. Forget about the future, he's just living for now. He tried to succeed, but he didn't know how to deal with rejection at the side of his face. All the isms and schisms concerning his race. He would stay here for 10 or 20 years at the most, take his family home and live high post. When daddy arrived, life, that was his master plan. His wife was the woman and he was the man. But life was so hard and it destroyed their souls. Some couples went mad, some reversed their roles. Young's gifted of life, they were a perfect team. But now they can't go back, they lost it all for a dream. And it wasn't a dream, this was a nightmare. E allora abbiamo ascoltato precedentemente il brano And It Wasn't a Dream dei Ruthless Rap Assassins, di cui ci tenevo a dire che innanzitutto sono un gruppo inglese anch'essi, e usavano chiaramente, ma questo era evidente, anche loro il campione del brano The Message dei Simande. Questo, tutto questo Illissi ci consente di chiudere il discorso del primo LP dei Simande e passare con questo brano che stiamo ascoltando invece in sottofondo, già iniziato, che è Fag, dal secondo LP dei Simande, Second Time Around, del 1973. Simande vanno in tour con Al Green dopo aver completato il primo album, appunto Simande, e tornano in Inghilterra subito dopo e registreranno appunto questo secondo album, Second Time Round. Everybody, more time, long with me, more time. altro pezzo sempre dal secondo LP, Second Time Round, e si mande, questo è Crochet. Si mande, subito dopo aver registrato Second Time Round, ripartono in tour per gli Stati Uniti e suonano fra gli altri con Jerry Butler, Patti LaBelle, Billy Preston, Ramsey Lewis, Edwin Starr, Albert King, KC and the Sunshine Band, Kool and the Gang e i Mandrill. Atmosfere soffuse, anche qui vagamente psichedeliche, per questo brano che si chiama Willy's Headache, il mal di testa di Willy. sempre dal secondo album dei Simande. Insomma, abbiamo visto come questo gruppo riscuote fin da subito e anche poi a posteriori, questo già l'avevamo detto prima, un successo maggiore negli Stati Uniti piuttosto che nel Regno Unito. Addirittura va in tour, come abbiamo visto, facendo spalla a nomi della musica nera e non solo, dalla disco music di Casey and the Sunshine Band al blues di Albert King e al sound abbastanza simile, devo dire, per quello che riguarda i Mandrill. Sentiremo in questo LP, ma anche e soprattutto quello dopo, come ci sono delle affinità del grande melting pot musicale che opera questo gruppo. Certo, mi viene la malinconia a pensare a un concerto di Kool & The Gang nel 1973 con spalla i Simande, mi fa venire i brividi solo a pensarci. Essere stato qualcosa. Ancora un brano, questo è l'ultimo che selezioniamo dal secondo LP di Simande, Genevieve. Dopo aver fatto da spalla a tutti quei grandi nomi della musica afroamericana, i Simande entreranno nella storia perché saranno il primo gruppo inglese a suonare al mitico Apollo Theater di Harlem, culla della cultura afroamericana. Now you're hurt and you lose your money down at Vision Well. Don't try to change your man or lose a man. Stay as you began if you can. Don't try to change your man or lose a man. Stay as you began if you can. Don't try to change your man or lose a man. People in this world hanging on, nothing to live for, ever on. People in this state living in a dream, ever late. They should try working together. They should try working together. They should try working together. They should try working together. Maybe they should care about the way they just waste their lives every day. It is not too late the damage that was caused by despair. They should try working together. They should try working together. They should try working together. This try working together. E beh, veramente un pezzone questo, meraviglioso, come sentite, un'atmosfera soulful, veramente raffinato, un giro di basso mirabile. Questo è già il primo brano dal terzo LP con cui concludiamo con questo LP la retrospettiva dedicata ai Simande, Losing Grounds, che fa parte di questo Promised Dates, terzo LP per i Simande, registrato per la Chess Records, quindi negli Stati Uniti, e poi post prodotto invece in Inghilterra e uscito in prima stampa lì. Na na na, na na na. Power to see you through is within you. They should try working together. They should try working together. They should try working together. They should try working together. Na na na, na na na. Power to see you through is within you. Is within you, yeah. Na na na, na na na. Power to see you through is within you. Rock away, sister. Na na na, na na na. Power to see you through is within you. Yeah yeah yeah. Na na na. Na na na, power to see you through is within you. You are losing ground. Na na na, na na na, power to see you through is within you. Na na na. Bye. to do. You can't win, so you know you must lose. We know which way you're going. We know which way you're going. Blood is on the slide. What you gonna hide? Wrecking your folks' name. It's a shame, but ain't no game. We know which way you're going. We know which way you're going. E allora, sempre dal terzo album dei Simande, questo è Brothers on the Slide, che sarà anche il 7 pollici per questo album. Soon you'll be inside. Know what they'll do to you. Make you pay up all you do. We know which way you go. E a proposito di questo pezzo e a proposito delle influenze che i Simande ricevevano soprattutto dagli Stati Uniti, mi viene da pensare per questo pezzo a arrangiamenti tipici di Curtis Mayfield, per esempio. C'è molto di Curtis Mayfield in questo pezzo. D'altronde avevano fatto anche la spalla a Jerry Butler, che era uno dei primi fautori degli Impressions, quindi ha collaborato con Curtis Mayfield. E quindi ritorniamo al Naya Rock. Come sentite, questo ultimo disco dei Simande, anche come il precedente, racchiude un po' più, diciamo, la variegatezza degli stili che loro amavano usare nel loro, diciamo, pasticcio musicale. Quindi tornano queste percussioni tipiche. Su questo brano alcune cose da dire e siamo quasi in finale. Pondy Dangle, questo è il titolo del brano, da Promised Days, l'ultimo LP degno di nota dei Simande, perché poi ce n'è stato un altro che si chiama Arrival, registrato intorno al 75, ma uscito, post prodotto e uscito poi nell'81, e anche nel 2015, in vista di una reunion di questo gruppo, è uscito un altro LP che si chiama Simple Act of Faith. Entrambi sono stati sottoposti a un ascolto e sono stati da noi trovati abbastanza dispensabili. Diciamo che rispetto alla qualità della musica che abbiamo ascoltato finora non era cosa da menzionare o da proporvi. Poi chiunque vuole può andarseli a sentire in ogni caso. So strong, that passion within man that says we can go on. When all that we fail, we know lies before us. Allora, c'è stata tutta una ricerca rispetto a, prima di chiudere, diciamo, questa cosa così di colore, rispetto al, innanzitutto al nome del gruppo Simande e questo ruolo dell'icona colomba all'interno di delle loro musiche, ma soprattutto della grafica dei loro dischi. Ricordiamo che la colomba appare sempre in qualsiasi copertina dei loro dischi, in un modo o nell'altro, anche con diverse grafiche, simbolo di pace, tante cose. La ricerca ha fatto vedere che questo nome Simande addirittura, secondo qualcuno, voleva dire colomba in un improbabile dialetto creolo, ma alla fine abbiamo capito che in realtà proviene da un brano del Calypso Man di Tobago, Lord Nelson, il quale brano si chiama Dove and Pigeon e non Dove and Peace, come viene citato da qualche parte, ed è semplicemente una schermaglia fra una colomba e un piccione, quindi una cosa abbastanza zoomorfica in cui alla fine compare addirittura un passero. Ma adesso non stiamo a parlare di questo testo, ma vi rimandiamo all'ascolto di quest'ultimo brano, dicendovi che appunto il nome Simande proviene dal ritornello di questo brano di Lord Nelson, in cui viene appunto fatto questo cucucu Simande o cose del genere, e loro hanno preso il nome da questa onomatopea, diciamo, qui, che non ha alcun significato. E quindi noi vi vogliamo salutare mandandovi questo brano molto gioioso, molto godibile, e invitandovi a cantare insieme a noi il simpatico ritornello. Ciao da Ettore. Ciao da Andrea. Radio Forte. Radio Forte, Phase Zero, terzo episodio. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Dove and Pigeon were two good companions. I said Dove and Pigeon were two good companions. But because the jealousy, they both that disagree. So Pigeon call a contest to prove to Dove that he is the best. I didn't have to figure, I knew Dove was smarter. Pigeon sure he had Dove covered, so he decided they would eat some pepper. He said, one thing you must remember, eat all you want, don't ask for water. Dove smiled and said agree, and they both flew on the pepper tree. Dove start to sing coo coo coo coo Bansi Mande, Neti Yeti Bansi Mande, why you Bansi Mande. You must say, you must say, and nobody should say. This is Caribbean time. Pigeon sure how we winning, eat it like a champ, won't say a thing. Then all the birds gather round to see what was going on. Still Pigeon kept up the pace, confident he gon' win the race. Singing coo coo coo coo Bansi Mande, Neti Yeti Bansi Mande, why oh Bansi Mande. You must say, you must say, and nobody should say. jump up with glee. Up and down the pepper tree, said, now take a tip from me. Our friendship done because of jealousy. Still singing, coo, coo, coo, coo, fancy Monday. Netty, yeti, fancy Monday, why, oh, why, oh, fancy Monday, you must say.